adesso non mi chiedere quando tornerò. Ti prego non insistere, magari chiamerò. Non ti prometto niente, anche se tu mi piaci già un po'. Non ti prometto niente, conosci già la regola, vedersi solo un po'. Capisco che non basta più, però per il momento no. Non ti prometto niente, sai che già una volta io l'ho fatto e che ho mantenuto tutto, io che ci ho creduto così. Sai come finì, sai come finì. Se tornerò a innamorarmi ancora, ora non so se sarà di te. Se ci sarà posto ancora, potrai riempirlo, forse tu, ma tu adesso non mi chiedere di più. Io non ti so rispondere se un giorno cambierà. Non ti prometto niente, dico solo che con te sto meglio e che il tempo del risveglio già potresti essere tu. Non dico di più, non dico di più. Se tornerò a innamorarmi ancora, ora non so se sarà di te. Più pensare a lei, oh, più pensare a lei.